Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del mondo le immagini dei londinesi che pazientemente si mettevano in fila per prendere gli autobus sostitutivi durante lo sciopero che ha bloccato la metropolitana. Immagini ben diverse da quelle che si vedono nelle nostre città, anche perché da noi gli scioperi dei trasporti pubblici non sono certo così occasionali e spesso non vengono nemmeno annunciati. Per non togliere agli utenti l'effetto sorpresa, ironizza Massimo Gramellini sulla stampa. Il direttore della metropolitana di Londra ha spedito una mail personalizzata a tutti gli abbonati per ringraziarli della pazienza con cui hanno sopportato lo sciopero dei giorni scorsi e informarli delle prossime agitazioni decise dai sindacati, fornendo una lista dettagliata degli orari di chiusura, dello stato delle trattative e delle linee che verranno comunque garantite. Quanta ipocrisia in queste memorie dal sottosuolo e quale mancanza di tatto seminare il panico tra decine di migliaia di persone con l'annuncio di disagi futuri che impediranno loro di godersi il fine settimana in relax. Ben altrimenti vanno le cose nei paesi di più antica tradizione e cultura. A Torino, Milano e Roma nessun manager di autobus o metropolitana si sognerebbe mai di togliere all'utente l'ebbrezza della sorpresa. Stamattina i mezzi pubblici funzioneranno? Andranno a singhiozzo con pause riflessive di un'ora tra una corsa e l'altra? Salteranno le fermate dispari, costringendoci a camminare per un quarto d'ora sotto la pioggia? Sono questi i dilemmi che danno un senso alle nostre giornate. I manager italici lo sanno e, resistendo alla naturale pulsione del loro animo gentile, che li spingerebbe a portare parole di conforto casa per casa, si trincerano dietro un apparente menefreghismo per lasciare ai cittadini il piacere di condurre un'esistenza improvvisata e spontanea, senza quelle certezze educatamente british che la renderebbero così prevedibile, lineare, noiosa, in una parola, civile. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Memorie dal sottosuolo, dalla stampa dell'8 febbraio. Il bullismo online, che nei giorni scorsi ha fatto l'ennesima vittima, ha riportato ancora una volta al centro dell'attenzione il problema degli insulti in rete. Ma a scrivere frasi stupide e offensive sui social network non ci sono soltanto gli adolescenti, come dimostrano le frasi postate sul suo profilo Facebook da Leonardo Cribio, consigliere di zona del Comune di Milano, iscritto a Rifondazione Comunista nella lista Sinistra per Pisapia. In occasione della giornata del ricordo, Cribio ha scritto: «Nelle foibe c'è ancora posto», assieme ad altri insulti rivolti, sono parole sue, a tutti quelli che piangono per qualche infame morto nelle foibe. Il sindaco Pisapia si è affrettato a definirle «frasi vergognose», mentre Rifondazione Comunista ha difeso il suo consigliere, definendo strumentalizzazioni le polemiche sollevate dalle sue frasi ingiuriose. Sulle pagine del Corriere della Sera, invece, Dino Messina consiglia a Cribio di leggersi qualche libro. Lunedì, nella giornata del ricordo, ogni 10 febbraio si commemorano gli oltre 10.000 italiani finiti nelle foibe o uccisi dai comunisti di Tito, gli storici su tutti i giornali italiani hanno spiegato che le vittime di quella duplice mattanza, la prima Jacques Rifu del settembre-ottobre 43, la seconda del maggio-giugno 45, non erano soltanto i fascisti. Per essere infoibati o passati per le armi sul confine nord-orientale bastava semplicemente resistere alle prepotenze jugoslave. I massacri delle foibe furono una tragedia nazionale che travalica i confini ideologici. Per anni se ne parlò solo a livello locale per una serie di fattori e pregiudizi politici. Pregiudizi che sono stati riesumati nella maniera più becera da un rappresentante politico che probabilmente non ha mai letto un libro. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Dino Messina, Si legga qualche libro, dal Corriere della Sera del 12 febbraio. Letture di Radio 24.

al punto che Hoskins si domanda se con la sua ricerca di informazioni stia forse cercando di fregare Tom Waits. Ogni biografo di Waits è costretto a misurarsi con un'impossibile ma irresistibile sfida in cerca della verità su un uomo per il quale la verità è sopravvalutata o soltanto irrilevante nell'industria dello spettacolo. Ci troviamo però di fronte a un inconveniente. È possibile vincere più cose sul vero Tom Waits leggendo, per così dire, tra le righe dei testi delle sue canzoni di quanto si farebbe con un cantautore in apparenza più aperto? Sebbene Waits si sia sempre celato dietro il suo ruolo di inaffidabile entertainer, è proprio la tensione della sua musica a trovarsi nello spazio tra la maschera e le emozioni, tra la cornice e la fotografia. È un buon stratagemma, eppure il dolore e la compassione, filtrati attraverso i temi del tipico numero alla Tom Waits, ci toccano nel profondo. Senz'altro non abbiamo il diritto di sapere chi sia il vero Tom Waits, tantomeno se sceglie di isolarsi dalla società. Tuttavia gli artisti, senza volerlo, spingono all'identificazione coloro che si innamorano della loro arte. Tutti noi vogliamo avvicinarci alla loro grandezza. Tutto questo provoca un infelice effetto collaterale, la simbiosi precaria tra la ritrosia dell'artista e il nostro bisogno di sviscerare il mistero della sua arte. È interessante notare come Waits non abbia mai seguito l'esempio di Scott Walker, che rifiutava quasi tutte le interviste. Non è la versione rock di J.D. Salinger o Thomas Pynchon. Non ha mai detto, come il Bartleby di Melville, preferirei di no. In genere si è dimostrato disponibile a rilasciare buone dichiarazioni per promuovere i suoi lavori. Tuttavia, per gran parte dei suoi 40 anni di carriera, è riuscito a nascondersi dietro una parete di umorismo e destrezza verbale, infarcita di «Dio, che ne so» e «Oh cavoli», che ne fanno una delle persone di quest'ambiente più articolate da intervistare. Waits sembra lamentarsi di come l'America sia diventata un paese nel quale qualsiasi attività solitaria genera il sospetto che ci sia un serial killer o un attentatore dietro l'angolo. Proteggere la sua vita privata dai curiosi ha reso Waits incline a scoppi di pura collera. Tom è un personaggio molto contraddittorio, ha sottolineato il suo amico Jim Jarmusch. Potenzialmente violento se pensa che qualcuno stia cercando di fregarlo, ma anche molto gentile e cortese. Sembra schizofrenico all'inizio, ma poi ti apparirà del tutto logico una volta che lo conosci. E io? Sto cercando di fregare Waits? Durante le mie ricerche sapevo che lui e la moglie Kathleen erano a conoscenza di quello che facevo, grazie alle email delle persone che si erano sentite in dovere di interpellare loro, il loro manager Stuart Ross o la loro assistente Julian Deary, prima di accettare di concedermi un'intervista. Ammetto che sia un po' come essere tallonati o semplicemente amati da qualcuno che vorresti ti stesse lontano. Quando uno scrittore rock veterano chiamato Uncle Ray decise che parlare con me avrebbe interferito con la privacy di Tom, pensai che peggio di così non poteva andare. Mio Dio, mi dissi, se non riesco nemmeno a convincere un vecchio critico rock a farsi intervistare, allora sono proprio spacciato. Per fortuna c'erano molte altre persone del suo passato disposte a parlare di lui, non solo perché non avevano niente da perdere, ma anche perché non avevano intenzione di farsi dire da Waits, Brennan, Stuart Ross o Julian Deary quello che dovevano dire. Una delle cose più difficili durante la mia ricerca è stata non lasciarmi incupire da questo duo intransigente, cioè Tom Waits e sua moglie, in modo particolare dall'ombrosa Kathleen, presumibilmente l'architetto dietro al muro di inaccessibilità eretto attorno a suo marito. Molte volte lungo il cammino mi sono fermato per ricordare a me stesso di non lasciare che quell'ostruzionismo mi mettesse contro di loro, di riaffermare la ragione iniziale per la quale ho scritto questo libro, delineare la crescita di un artista sorprendente, scoprire le sue origini, quello che ha fatto della sua esperienza, in che modo abbia cambiato direzione quando l'ha ritenuto necessario, nella speranza che la gente voglia saperne qualcosa in più. Il poeta Rainer Maria Rilke affermò che la fama è semplicemente la somma di tutti i malintesi che si raccolgono intorno a un nome. Non riesco a immaginare Waits mettere in discussione questo piccolo lampo di genio. Forse sa una cosa che Dylan e Neil Young avevano intuito all'inizio delle loro carriere. Quanto meno racconti, più la gente vuole sapere. Tienili affamati, falli indovinare. Nel 2004 Waits lo espose meglio di chiunque altro, me compreso. Devi fare in modo che la domanda superi di molto l'offerta. Il pubblico è un animale selvaggio. Meglio non sfamarlo troppo. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Barney Hoskins, Tom Waits, Dalla parte sbagliata della strada. Odoia, 448 pagine, 22 euro. Phones are fuck. No one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue, as blue.